Abbiamo il dovere di affiancare e di sostenere questo tipo di esperienza anche perché il fortissimo tessuto associativo e la cultura femminista di Bologna ha contribuito a sviluppare alcuni dei servizi che oggi sono imprescindibili nel contrasto alla violenza di genere o per l'educazione alla differenza, appunto, che sono parti di una piramide che è il patriarcato e che va decostruito in tutte le sue forme, dalla battuta, dallo stereotipo sessista fino alla sua pagina più nera, che chiaramente è lo stupro e il femminicidio. Fare tutto questo ha bisogno chiaramente di un'azione importante di repressione quando c'è un reato grave, ed è bene che le donne continuino a denunciare come sta succedendo, ma ha bisogno anche di un fortissimo lavoro di prevenzione per decostruire alla base quella violenza di genere che troppo spesso vediamo nelle nostre città e per progettare delle città che siano pensate anche con lo sguardo delle donne, non solo su un unico modello di cittadino. Questo ci aiuta a creare spazi più inclusivi per tutte e tutti e anche a costruire condizioni di emancipazione per le donne nella nostra città. Quindi il nostro dovere, anche in un'ottica di sussidiarietà, è davvero sostenere questo tipo di esperienze e adottare uno sguardo di genere in tutte le nostre politiche pubbliche.